La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, buon venerdì 9 maggio, 16:37, primi 20 secondi, siamo in diretta qui dagli studi Radio 24 di Milano. Vado subito al tema della nostra trasmissione per consentirvi di chiamarci all'800-24-0024. In particolare oggi parleremo di uno studio che ha messo a raffronto la pressione fiscale locale nelle province di Milano e della Brianza, quindi Milano, Lodi, Monza e Brianza, e rispetto al 2012, quindi per verificare quantitativamente per le imprese come è andata rispetto a tante promesse di tassazione locale invariata, pressoché invariata, sì, con qualche eccezione di aggravamento per chi è condizioni finanziarie gravissime oppure meno, e vedremo che la realtà è molto diversa da questa. Quindi se volete chiamarci per dire la vostra esperienza particolare tra 2013 e 2012 sulla tassazione locale, in particolare per l'impresa, è la giornata giusta per farlo, mentre noi intanto parleremo, appunto, numeri alla mano, di questa verifica, di questo censimento generale che consente qualche riflessione di fondo, visto che stiamo parlando poi di una delle aree a più alta intensità di impresa, di manifattura e di contributo all'export e alla produzione industriale del nostro paese. Proprio a proposito di produzione industriale, oggi l'Istat stamattina ci ha dato un dato su cui riflettere, perché rispetto alle tante dichiarazioni di fiducia che è giusto nutrire, perché sennò non ci riprenderemo mai da questa crisi, però poi bisogna guardare l'andamento concreto dei dati. Ecco, la produzione industriale di marzo registra ancora un meno 0,5% congiunturale, cioè sul mese precedente febbraio, e siamo ancora a meno 0,4% su base annuale. Quindi questa è l'amara realtà dei fatti. È vero che su questo andamento col segno ancora negativo pesano molto i settori dell'energia, per via del fatto che è arrivato il caldo, tutto quello che volete voi, però insomma, come si vede, non ci siamo ancora. La promessa di iniziare a restituire non solo ai dipendenti che sono entro i 25.000 euro lordi, ma anche un po' alle imprese autonome, eccetera, eccetera, parte almeno dell'eccesso di pretesa fiscale di questi ultimi anni è ben lungi dall'essere intrapresa, e i risultati, come vedete, quelli concreti, al di là della fiducia e dell'ottimismo che uno deve nutrire per andare avanti, ci dicono che siamo ancora lontanissimi da sbloccarla la crisi. Ma torniamo al punto di oggi, perché questo secondo rapporto sulla fiscalità locale, mettendo quindi a paragone le richieste tributarie alle imprese di una novantina di comuni delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza sulle imprese, è stato realizzato proprio dalla più grande territoriale di Confindustria, cioè a Solombarda. Stiamo parlando di oltre 5.000 imprese iscritte, ed è un tentativo di confrontarsi con la politica, quella locale, numeri alla mano, cioè invece di animare campagne, per così dire, pregiudiziali o ideologiche, eccetera, eccetera, Solombarda si è messa a mettere in fila i numeri per vedere ogni anno chi migliora davvero e di quanto rispetto all'anno precedente, chi si inventa modalità per rendere meno difficile la vita dell'impresa nel proprio comune, chi invece aggrava e di quanto, e complessivamente di qual è l'aggravo medio, qual è il trend. Ecco, io vi dico solo che la cifra è complessiva, quindi pesata per tutto il campione, è di un aggravamento in un solo anno del 13%, quindi stiamo parlando doppia cifra, capite, altro che la tendenziale invarianza che viene promessa o dichiarata dalla politica, tranne qualche rara eccezione. Qui stiamo parlando sulle imposte locali e sulle addizionali, quindi stiamo parlando in buona sostanza di innanzitutto le imposte sugli immobili, le imposte sui rifiuti e come queste pesano in maniera diversa, ma sui capannoni e sugli uffici, stiamo parlando di un andamento molto molto pesante. Allora, per parlarne abbiamo invitato il vicepresidente della Solombarda, che nella squadra della Solombarda è esattamente alla testa di questo progetto, che è uno dei 50 progetti con cui la Solombarda tenta di interloquire con gli stakeholder locali, ed è con noi quindi Carlo Bonomi. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio. pomeriggio a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, io ho dato solo questo dato generale, ma vediamo un pochino, in realtà questo dato generale voi come lo avete calcolato? Perché il bello di questa ricerca è proprio quanto va in profondità e quanto consente di paragonare, cioè di parlare in concreto poi ai politici dicendo chi fa meglio, chi fa peggio e anche di chiedersi il perché. Diciamo che la rappresentazione metodologica è la seguente: noi abbiamo analizzato 86 comuni nelle province di Milano, Lodi e Monza e Brianza, tenendo conto dei seguenti indicatori: di una popolazione residente di almeno 10.000 abitanti, che avessero almeno 1.000 imprese sul territorio e almeno 15 imprese associate da Solombarda. Questo ci ha consentito di selezionare appunto gli 86 comuni che danno una copertura dell'81% poi della popolazione locale di queste tre province e nelle quali sono localizzate l'87% delle imprese associate e delle unità locali operanti sul territorio, per cui diciamo un quadro fortemente rappresentativo delle attività imprenditoriali e produttive del territorio. Se andiamo per tipologia di imposta, la cosa abbastanza significativa è che praticamente mentre su quella dei rifiuti gli importi medi annuali più o meno, insomma, non voglio dire che siamo in presenza di una sostanziale verifica della promessa della politica, ma invece per quello che riguarda l'IMU, sia per gli uffici che per i capannoni, una bella sberla. Beh, questa è veramente la nota dolente che è emersa dalla nostra ricerca. In effetti abbiamo visto che l'imposta dell'IMU per gli uffici è aumentata mediamente del 24%. 24%, sì, e sui capannoni devo dire solo del 7%, ma bisogna tener conto che il dato di raffronto del 2012 teneva conto già di un'imposizione che era schizzata alle stelle. Sì. Sì, devo dire sì, ma ecco, se questi sono gli aumenti medi di queste due imposte, nel campione voi che cosa avete verificato? Che poi c'è un tentativo più o meno apprezzabile da parte di un significativo numero di amministrazioni locali di queste quattro province di tentare, inventandosi qualche cosa per comprimere la tendenza generale all'aumento? Oppure questa tendenza generale all'aumento è fatta di grandi strappi di pochi che sono in difficoltà e di altri che si comportano virtuosamente? Cioè l'immagine complessiva esprime una certa consapevolezza di che cosa succede con aumenti a doppia cifra in anni di crisi? Oppure come va letto secondo lei? Ma guardi, inizialmente va data una premessa, cioè che noi riconosciamo che le amministrazioni comunali si sono trovate anche loro ad operare in una grossa difficoltà di quadro normativo. Abbiamo esempi di delibere fatte a novembre, di doppie delibere, perché non sapevano ancora che aliquote dovevano applicare. E questo secondo me fa bene a riconoscere, perché tante volte abbiamo sottolineato che l'anno scorso è stata nella gravità delle proroghe che vengono concesse dal Tesoro come termini per i bilanci dei comuni. Di solito ormai andiamo verso maggio-giugno tutti gli anni, e quest'anno comunque è luglio, ma l'anno scorso abbiamo toccato addirittura novembre, perché il Tesoro non era in grado di dire ai comuni quanto gli serviva per le parti di pertinenza nazionale per far quadrare i conti delle imposte locali, quindi un vero scandalo. Assolutamente, cioè noi imprenditori sappiamo cosa vuol dire operare su un bilancio a novembre, è una follia. Detto ciò, abbiamo notato però che alcune amministrazioni locali, a fronte, va bene, di un aumento del raddoppio, per esempio della quota di riserva a favore dello Stato, che era passata dal 0,38 al 0,76%, però il 40% delle amministrazioni locali hanno aumentato fino al livello massimo la tassazione all'1,06. Questo ovviamente è stata una grossa difficoltà per le imprese, perché comprendiamo le difficoltà di bilancio delle amministrazioni locali, ma avremmo auspicato una gradualità negli aumenti. Il 40% delle amministrazioni locali che portano to cure al massimo livello la tassazione, questo secondo noi non è stato una cosa positiva. In tutto ciò poi ha operato la difficoltà poi di adempiere, perché al di là di dover pagare le imposte è stato un problema come pagarle. Ah sì, allora adesso noi abbiamo 60 secondi di interruzione per l'informazione stradale, subito torniamo con il nostro ospite Carlo Bonomi a parlare di questi aumenti di fiscalità locale sulle imprese a doppia, sottolineo, doppia cifra. Voglio solo leggere il messaggio di un ascoltatore che mi ha fatto amaramente sorridere, che è appena arrivato mentre parlava Bonomi. Ma no, dai, dice l'ascoltatore, siamo positivi, questo è il paese del segno positivo, più tasse, più disoccupazione, più corruzione, più povertà, eccetera, eccetera, eccetera. E purtroppo queste cose qua, e poi in questi giorni successivi a quello che è successo sull'Expo ieri, capisco il nostro ascoltatore. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a 16:48, primi 40 secondi. Stiamo parlando di questo report che viene curato ogni anno, questa è la seconda edizione, da Solombarda, che censisce il più dei comuni di queste quattro province in cui sono concentrate le imprese, per vedere come effettivamente va di anno in anno la pressione fiscale locale, oltre a quella nazionale, per ragionare poi con la politica. Numeri alla mano, però, al di là delle promesse. Tenete conto che noi stiamo parlando di imprese che al fisco, nelle quattro province, quindi imprese milanesi soprattutto, ma quelle delle altre tre province, di un complesso di imprese che tra il 2007 e il 2012, quindi escluso il 2013, di cui non abbiamo ancora ovviamente le cifre fiscali, però ha generato più o meno 30 miliardi e mezzo di utili lordi, le imprese di cui stiamo parlando, e sommando ovviamente con media aritmetica gli utili complessivi, circa 42 miliardi, e poi le perdite di 11 miliardi. E su questi 30 miliardi e mezzo di utili lordi, beh, il fisco se ne è preso più di 15. Più di 15. Capite bene che poi uno dice: ah, per crescere bisogna investire, eccetera, eccetera. Ho capito, ma in molti casi si va oltre il 60% dell'utile lordo di impresa, la partita fiscale. Per questo ha senso ragionare dati alla mano invece che per schieramento politico, per così dire. Dati alla mano, Bonomi, chi è più, diciamo, in fondo alle graduatorie che voi avete stilato come aumenti della pressione o addirittura diminuzione? Lo fa perché eredita semplicemente bilanci più ricchi, diciamo così, rispetto a chi ha dei limiti del patto di stabilità, oppure perché si inventa delle cose, cioè si inventa delle procedure di diminuzione della spesa a fronte delle quali è in grado poi di evitare di andare al massimo di aliquota addizionale? Ma guardi, i dati che abbiamo analizzato innanzitutto rilevano che l'imposizione è più forte nei capoluoghi di provincia e tende a diminuire man mano che ci si allontana dai capoluoghi di provincia in senso geografico. Per cui questo da una parte è giustificabile, perché ovviamente l'immobile a Milano costa di più, per cui la rendita catastale è più alta rispetto a chi è più distante dal capoluogo di provincia, e molto probabilmente anche perché i servizi che deve dare una città come Milano possono costare obiettivamente di più rispetto a chi è lontano dal capoluogo di provincia. Non abbiamo notato, dai dati che abbiamo in nostro possesso, comuni che hanno cercato in maniera sistematica di fare una politica virtuosa rispetto al sistema delle imprese. Questo, a parte qualche strana eccezione, ma parliamo proprio di uno o due comuni, e i restanti comuni hanno cercato di aggiustare i dati di bilancio essendo alla fine dell'anno. Senta, ormai, ma questo parlando appunto di Milano, uno ha idea, una delle realtà più avanzate d'Italia, che ci sia ancora questa scarsità assoluta di esperienze locali che voi censite, in grado di a quarto o quinto anno di crisi di capire che bisogna invece inventarsi le procedure per diminuire il totale di spesa e quindi poter stare più leggeri con la pressione fiscale per non far allontanare l'impresa e non farla morire. Ma perché? Perché sono tante le imprese ereditate nella storia e quindi si spera semplicemente che il tutto riparta? Perché a me colpisce molto un dato così limitato come quello che ci ha citato. Diciamo che da un certo punto di vista lei ha ragione, cioè molto probabilmente c'è poca attenzione. Teniamo conto che anche noi è il secondo anno come Solombarda che stiliamo questo rapporto, per cui non c'è forse tanta cultura ancora sulla fiscalità locale. Non bisogna dimenticare che fra l'altro i comuni più virtuosi sono stati penalizzati nei trasferimenti dello Stato. Ma i sindaci, cui, quando voi lo presentate, i sindaci si arrabbiano a vedere le cifre comparate o ringraziano? No, devo dire che con le amministrazioni comunali hanno condiviso con noi che non sono delle pagelle, è uno strumento utile per ragionare insieme. La cosa che abbiamo condiviso è che sappiamo che in questo momento è difficile l'abbassamento dell'imposizione fiscale, ma almeno ragionare insieme sulla certezza normativa. Ecco, appunto, per non arrivare a sballare tutti i conti, tenete conto che ieri, per esempio, a proposito di promesse non mantenute, sapete che nel decreto, l'ultimo decreto del governo per il 1° maggio, per le coperture, nel decreto IRPEF, rispetto alla rivalutazione dei beni d'impresa presentato come uno strumento per aiutare un'impresa, il governo ha cambiato idea, non rate triennali per l'ammortamento, ma 600 milioni in un solo anno. Ecco, cose come queste, capite, come aiuto all'impresa, quindi c'è gente che sulla rivalutazione ha deciso di muovere capitale e investimenti, e dopodiché lo Stato cambia idea su quello che in teoria è un aiuto e ti chiede di far cassa subito, la dice lunga su come è difficile per un'impresa poi davvero programmare flussi di cassa con margini che spesso sono contenuti. Detto tutto questo, sentiamo Giuseppe da Belluno, che è in linea e vuole dirci cosa pensa o la sua esperienza. Prego Giuseppe. Buongiorno Oscar, buongiorno. Complimenti sempre per la trasmissione. Io sono un agente di commercio, giro per le piccole e medie imprese e anche per le industrie. Allora vorrei dire al signor Bonomi, all'Asso Lombarda e a tutte le nostre associazioni di categoria che loro non stanno facendo niente, rimarranno senza clienti. Aia. Rimarranno, loro elaborano dati, vivono di corsi di sicurezza, analisi eccetera, ma alla fine rimarranno senza clienti. L'unica manifestazione che è stata fatta per le aziende è stata fatta il 18 marzo, mi sembra la data che sono andato anch'io, è stata una cosa organizzata che c'erano le famose 60.000 imprese, che io le posso garantire che solo nella mia zona. Aspetta Giuseppe, perché a questo punto, siccome oggi chiudo anche prima, ne abbiamo anche parlato di quella manifestazione, però io devo dare a questo punto Bonomi, si può e si deve fare di più, ma non è che si può ancora fare di più, Bonomi, per gli associati. Ma io capisco che in questo momento tutti noi, perché anch'io sono un imprenditore, abbiamo sicuramente un certo malessere. Si può fare di più, noi lo stiamo facendo, la coperta qui non è che è corta, la coperta non c'è più. Esatto. Lei aveva accennato una cosa giusta quando parlavamo di certezza del diritto, cioè tutto il quadro normativo è teso ormai al gettito. Esatto, solo a far quadrare i conti di sua maestà lo Stato, e gli altri a quel punto si devono solo adeguare. Naturalmente chi non ha margine andrà sempre sotto. Mi dispiace, il tempo è finito, grazie a Bonomi, continuate con Radio 24, appuntamento con me a lunedì.